Stagione 2020-2021, nuova edizione Danza Urbana, Buglian Piana e Rachele Copparoni per Radio Città Fugico, siamo in compagnia di Massimo Carosi. Una nuova edizione, quindi con quali linee e contenuti? Questa per noi è la 25esima edizione, quindi un importante traguardo, e c'è dalla parte nostra sia la volontà di trasmettere questa esperienza alle nuove generazioni e proiettarci invece verso il futuro, quindi andare a indagare i futuri scenari. Luoghi in cui si svolgerà l'evento? Abbiamo 8 differenti luoghi della città di Bologna, al Dumbo, ex scalo ferroviario del Ravone a Bologna, abbiamo gli spazi nel cuore della città come Palazzo Renzo, Chiostro di San Martino e Chiesa di San Mattia, e poi avremo degli interventi al giardino Parker Lennon nel quartiere San Donato e nella piazzetta Anna Magnani di fronte alla Cineteca, dove poi si concluderà il festival con la proiezione al giardino del Cavaticcio di un film in collaborazione con Gender Pender, SCIE e Zed Festival. Appuntamenti in presenza? Questa domanda è un po' così particolare visto il periodo da cui stiamo venendo. Sì, Danza Urbana assolutamente in presenza, siamo riusciti anche l'anno scorso, e quest'anno per noi l'elemento essenziale è appunto la condivisione di un'esperienza tra artisti e pubblico. I giorni in cui sarà, ancora non l'abbiamo detto, i primi di settembre, giusto? Dall'1 al 5 settembre. Come si comincia? Abbiamo il 1 settembre, 2 spettacoli al Dumbo, in particolare Cristina Crystal Rizzo che presenta Echoes, un site specific per 4 danzatori e nello spazio bianco, e poi abbiamo una compagnia internazionale, Sharon Friedman, che presenta un duo intitolato 147 abbracci. Novità sul quale vogliamo mettere un attimo attenzione? Quest'anno abbiamo una sezione curata da un gruppo di studenti del dance dal titolo Deviazioni, ed è un progetto sviluppato in occasione dei 50 anni del Dance di Bologna e dei 25 anni del Festival. Noi nasciamo come gruppo di studenti universitari nel lontano 97 che diedero vita al Festival, e quindi abbiamo curato con loro questa sezione del Festival che sarà presa in programma il 5 di settembre, la domenica. Modalità di partecipazione, bisogna prenotarsi, come funziona? Un po' di info. Anche quest'anno è un'edizione un po' anomala per via della pandemia, quindi abbiamo gli spettacoli gratuiti con l'obbligo di prenotazione su Eventbrite, mentre ci sono 4 spettacoli a pagamento, e per questi spettacoli invece si può acquistare online su Viva Ticket. Abbiamo accennato intersezione con Gender Bender, qualche altra collaborazione o intersezione da dire? Senz'altro, abbiamo il 3 di settembre lo spettacolo Palpebra di Collettivo Cinetico, che è inserito all'interno di una monografica curata e realizzata insieme all'Associazione Liberty Agorà, all'Associazione Cronopios e al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, e si inserisce all'interno di un più ampio contenitore che è EBAL, coordinato da ATER. Ovviamente sito, pagine social per avere il programma in maniera più estesa e di facile consultazione. Senz'altro www.danzaurbana.eu. Grazie per la disponibilità e buon festival, buona Danza Urbana. Grazie e vi aspettiamo.